Kid MC, punto e basta. Tutto ciò che resta dentro questa capa tosta. Ferite già guarite quando caduta la crosta. Ancora Fat Funk che si degusta. La mortice che si consuma sui vinili. Polpastrelli, tornare a casa col colore di troppi spinelli. Canti chiari in auto mentre guido ritornelli. Pensando ad una soluzione per i miei fardelli. Come ci vedi, mo ci vivi in istanti relativi. Predicate congiuntivi nelle fantasie che scrivi. Le relazioni che vedi nelle persone in cui credi. Culo su una sedia, siedi domande che non ti chiedi. Usare mo diversi modi per dare alla gente. Te lo dilatto mente, ti corro di rimasto in abbiocco in piedi. Te lo canto, te lo mimo, te lo spiego e descrivo. Un'altra giornata che vivo senza alcun obiettivo. C'è una cosa la da di ciò stesse. Una parola trase, una parola yes. Sindo non cristiane, cate figlie perfesse. Una ricca trase, dall'alta yes. Spegnere che se ne volano in zimu vinde. Ma da che temere ma non scinde per cinde. Si capito buona, fatto convinte. Delle parole mere ma non scinde per cinde. Deve stire dalla sera alla mattina. Ognuno mi senti me, chi del rine. Mo cuienze facciamo su terzette. Un zero bella aspetta, facciamo rap corrette. No cu bailis, ma cu sentimente. Te de nascosse, a mo de due venta. Corrente, un se non ci siamo contro. Abituati sempre, ad ogni scontre. Round dopo round, e che è questo si lo sai che va in down. Cusi è un sound, quali ti basta? Is your town, quali ti basta? From underground, banger, rima manger. Nanza ferma, mi trovi sempre tipo la luce del sole. Rime come raggi ti continua a illuminare. Io vedi una cosa la da di ciò stesse. Una parola trase, una parola yes. Sindo non cristiane che te figlie perfesse. Una ricca trase, dall'alta yes. Spegnere che se ne volano in zimu vinde. Ma da che temere ma non scinde per cinde. Si capito buona, fatto convinte. Delle parole mere ma non scinde per cinde. Ma se resto che buona allora sindo mo. Te dico gli un, due, tre, freaky funky flow. K-H-I-D-O da sud Italia blow. Le mie parole che percorrono un flow fluido. Quanta gente segue sempre i soliti schemi. Rimanendo fermi fra mille problemi. Chi predica bene per poi razionare male. Nella vita normale qui tutto resta uguale. Una parola trase, una parola yes. Rino on the mic, no stress. Nata faccio fesse, ma tu faccio stesse. Sindo un sapore che nell'aria morest. Tra mille racconti, prima o poi sprofondi. È meglio che ti affidi sempre i tuoi riflessi pronti. Ogni giorno, ogni ora, ogni secondo. Sai, bisogna battersi in questo mondo. Ancora canto, non ganda, da chiacchiere vacante. Da una ricca trasse, dall'alto, yes. Potesse, cado una sciuna fesse. C'è già una scema frisse. C'è uemo, te fazze, burro, bimba. Ancora canto, non ganda, da chiacchiere vacante. Da una ricca trasse, dall'alto, yes. Potesse, cado una sciuna fesse. C'è già una scema frisse. C'è uemo, te fazze, burro, bimba. C'è uidi una cosa, la da di ciò stesse. Una parola trase, una parola yes. Se sindo non cristiane, cado figlie perfette. Una ricca trase dall'alto, yes. Spegnere che se ne volano in zimu vinde. Ma da che temere ma non scinde per cinde. Si capito buona,